Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Le 15 in punto a Radio 24. Se vi sono mancata per qualche secondo durante la sigla era perché stavo sistemando la cuffia, ma soprattutto perché mi stavo mettendo il cappotto. Fa freddissimo in questo studio, lo dico a tutti i maschi della diretta della mattina di Radio 24, tengono una temperatura in questo studio. Parleremo molto di maschi e femmine in questa puntata del Sabato del Villaggio, che come sempre è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, i nostri liberi consigli per il fine settimana, in diretta da ora dalle 15 fino alle 18, la terza ora dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per contattarci, come sempre, il numero per i vostri SMS, ma anche WhatsApp, 349-238-6666, e poi c'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV. Ma scopriamo i temi della prima ora di questo Sabato del Villaggio. Beh, come sempre, i consigli per le uscite nel fine settimana al cinema, l'appuntamento con il gastronauta, questa volta andiamo a casa sua, andiamo in Romagna. Con Enrico Pagliarini parliamo di trovare le cose. Non me l'ha spiegato così, capiremo poi cosa significa, ma il filo conduttore del nostro sabato, ve l'ho detto, sarà uomini e donne, o meglio, cose da uomini che hanno conquistato anche le donne. E qui entriamo subito in argomento supereroi, ma non solo, perché grandissimo successo al cinema questo Batman vs Superman, non molto apprezzato dalla critica, molto dal pubblico, grandi incassi. Piacciono tanto alle donne i supereroi, visto gli incassi che ha fatto questo film al cinema, direi proprio di sì. C'è la nostra Valeria in regia che sorride, perché so che anche lei alcuni supereroi piacciono molto. Supereroi, ma anche videogiochi. Sono due mondi che spesso si toccano ultimamente. È da un po' che non lo chiamiamo in diretta, quindi torniamo a collegarci con il nostro esperto preferito, sia di supereroi, ma che soprattutto di videogame, Emilio Cozzi. Ciao Emilio! Ciao Marta, ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno! Buongiorno, allora Emilio, ho detto giusto che supereroi e videogiochi si toccano ultimamente? Certo, si toccano moltissimo, così come si tocca anche la televisione e le serie televisive. Ormai il mondo dei supereroi è un bacino, come dire, laddove tutti i media attingono con volentieri e con un grande successo, in realtà, perché poi, come dicevamo anche l'ultima volta che siamo sentiti, ci sono 20 film dedicati ai supereroi attesi nei prossimi 5 anni. Insomma, sì, direi che è una vena piuttosto dorata. Noi ci siamo sentiti l'ultima volta quando è uscito, lo chiamavano Gigrobo, film che ci è piaciuto tantissimo, questo Batman contro Superman. Ci è piaciuto un po' meno, diciamola sì, così, per usare un eufemismo. In realtà l'esperimento è molto interessante, perché Zack Snyder, che è un regista che con i supereroi, come dire, ha una certa dimestichezza, basti pensare che fu lui a tradurre Watchmen, forse uno dei fumetti, delle graphic novel più importanti degli ultimi 25 anni dedicate ai supereroi, perché stravolse il concetto dei supereroi così come era inteso fino ad allora, facendoci vedere come sostanzialmente come delle persone normalissime dotate di doni particolari, ma con problemi anche piuttosto seri. Ebbene, dopo Watchmen, un film piuttosto riuscito, arriva quindi a fare questo film attesissimo, che in realtà, come dicevi tu, ha incassato 500 milioni di dollari nella prima settimana di proiezione. È un risultato stupefacente, salvo, ecco, questo non lo dice quasi nessuno, perdere nel primo weekend il 55% di propri incassi, quello che si chiama drop, vale a dire la gente è corso a vederlo, evidentemente poi si è sparsa la voce che il film non fosse così bello e non in tanti sono andati a vederlo dopo le prime. Il contrario dell'effetto tam tam, che quelli che escono dicono agli altri venite a vederlo, forse sono andati subito quelli i super appassionati. Giusto, che per esempio ha funzionato molto con il film di che menzionavi prima, lo chiamavano Gigrobò, che è un film che sta andando molto bene, al di là del fatto che sia candidato a 16 David di Donatello fra due settimane. Ma torniamo appunto a Batman e il nostro Superman. Al di là delle intenzioni buone di Snyder, che imposta tutto come faceva Morrison, uno scrittore che qualche anno fa dedicò un libro ai supereroi paragonandoli ai super dei moderni, super gods si chiamava infatti, cioè i miti greci spostati nella contemporaneità, tanto che la scena in cui, abbiamo già visto al cinema un sacco di volte questa scena, in cui ci spiegano l'origine di Batman, cioè l'assassinio dei genitori del povero Bruce Wayne, i genitori stanno uscendo da una proiezione, Excalibur, un film dell'81 di Borman, che parla di mito, parla di mitologia. Ecco, al di là delle grandi intenzioni, poi il film, come mi è capitato di scrivere, parla di questi supereroi in pigiama, super ragazzoni in pigiama attillato, con dialoghi francamente da dimenticare, e soprattutto difetto molto contemporaneo, con una serie di avvenimenti che succedono, non dico per caso, perché purtroppo non è per caso, ma sembra molto per caso, insomma, dialoghi imbarazzanti, la solita Lois Lane che l'unico a proposito di donne, l'unico ruolo, poverina, è quello di farsi salvare, insomma, non mi ha convinto molto. Sì, anche a me lei ha convinto molto poco, anche nei momenti in cui prende in mano la situazione, ma non mi sembra convinta neanche lei. Direi di no. Io ti ho introdotto come esperto di supereroi, ma anche di videogiochi, perché proprio i videogiochi sono uno degli aspetti che mi hanno maggiormente incuriosito, in quanto sembra sempre più che piacciano alle donne, ma non sono fatti a misura di donna. Per dire, non è che ci sia il videogioco di Barbie per incuriosire e catturare le signore. Diciamo che c'è una sorta di videogioco di Barbie, ma quello che dice è vero, mi spiego. Convenzionalmente i videogiochi sono considerati per uomini, fatti da uomini, tanto che nell'82 Kaplan, un sociologo, rileva che l'80% e oltre dei videogiocatori sono maschi e meno del 20% sono femmine. Questo nell'82. Ebbene, gli ultimi dati dell'ESA, l'Entertainment Software Association americana, rilevati 6 mesi fa, ci dice questa cosa, che il 44% dei videogiocatori negli Stati Uniti, ma credo che il dato sia estendibile in tutto il mondo, ormai sono donne. Non solo, la più grande percentuale di giocatori, cioè il 33%, sono donne con più di 18 anni. Tu pensa che convenzionalmente il pubblico dei videogiochi, falsissimo, è inteso come di minorenni maschi, ebbene quelli sono il 15%. Le donne che over 18 che giocano ai videogiochi costituiscono il 33% del mercato dei videogiocatori, e questo già dice molto. A cosa giocano? Dici bene, è una sorta di spesso Barbie, che vale a dire i giochi più story driven si chiamano, cioè quelli con una storia più approfondita. Mi vengono in mente Life is Strange, un gioco parigino molto bello che parla di due. Non lo conosco ancora, lo cerco subito perché ci voglio giocare. Life is Strange, okay. Un gioco francese che in realtà è un'avventura molto bella, che racconta del rapporto di queste due ragazze adolescenti in una scuola dell'Oregon. Una delle due ha anche qua, si tocca, ha un super potere, cioè riavvolge il tempo, ed è un escamotage realizzato molto bene, perché racconta in realtà la storia di un'amicizia tra adolescenti molto profonda. Ma sorpresa, come dicevi tu, giochi tipicamente maschili, se non altro nella credenza pubblica, in realtà sono molto giocati dalle donne. Per esempio gli MMO, cioè quei giochi di massa in cui insieme occorre fare quest, in cui occorre fare missioni, in cui occorre uccidere il drago, sto banalizzando. Ebbene, Elvenar, un gioco di questi, addirittura ha il 42% del pubblico femminile contro il 37% di quello maschile. O World of Warcraft, uno dei giochi più famosi, certo. Peraltro verrà tradotto al cinema dal figlio di David Bowie a Junior. Bene, il 40% dei giocatori sono donne, o addirittura le donne, il 30% delle donne giocano, ahimè, ai giochi considerati violenti, i famosi Call of Duty o GTA, hanno quasi un quarto dei propri utenti fra le vostre fila. Diciamo. Ci ho provato io a giocare a GTA, una tragedia, ma perché poi ci rimanevo male, fa male, ma poi la macchina si rompe, e mi spiegavano, ma quello è il gioco, non è il mio. Tieni presente che il tema in realtà dell'approccio femminile al gioco, ma anche alla creazione di giochi, è sempre al centro di un dibattito, anzi al centro di un dibattito crescente. Pochi giorni fa, soprattutto per la caratterizzazione, la rappresentazione del corpo femminile nei videogiochi, c'è grandissimo, grandissimo fermento. Pochi giorni fa un gioco che non è ancora uscito, Overwatch, un MOBA, cioè un altro di questi tipo arena da combattimento. Allora, un MOBA, aspetta che capisco, un MOBA. MOBA. Cos'è il MOBA? Esatto. Il MOBA è un'arena di combattimento massiva, laddove appunto in tanti, diciamo, si combatte per raggiungere un obiettivo che tendenzialmente è presidiare e comandare una zona, un'area precisata. Si gioca online, si gioca in molti e spesso e volentieri ci si massacra con grandissimo piacere. Ebbene, uno di questi giochi uscirà a breve, è stato in qualche modo rivisto per la posa un pochino troppo sexy e in effetti stereotipata di uno dei personaggi principali, che era appunto un'eroina. C'è un grande dibattito sulla fattura dei videogame, che devono essere più sensibili a certe tematiche o semplicemente più adulti, più intelligenti. Quindi l'argomento che tocchi è serio e sta sempre più seriamente venendo trattato. Mi torna alla mente Lara Croft, che ormai sembra preistoria, ma è stata una delle prime eroine, anche lei super sexy, bombastica, diciamo. Bombastica, assolutamente, anche lei è arrivata al cinema, peraltro non a caso interpretata da Angelina Jolie, che, come dire, è piuttosto piacevole all'occhio, e tra l'altro compie 20 anni proprio quest'anno. E Tomb Raider è uno di quei giochi assolutamente che sono riusciti, peraltro coraggiosissimo, perché la storia dei videogiochi dimostra che quando il protagonista è femmina, il rischio è di vendere meno copie, per paradosso, cosa che, ti ripeto, sta subendo un'inversione di tendenza. Benissimo, Lara Croft fu la prima a dimostrare il contrario. Lara Croft, questa sorta di Indiana Jones, oddio, ben più bella di Indiana Jones, ma egualmente determinata, è stato un gioco, diventato un blockbuster del genere, amato tanto dal pubblico maschile quanto dal pubblico femminile. L'ultima volta che ci siamo sentiti per parlare di videogiochi avevamo parlato di un po' di novità e mi avevi anticipato l'arrivo di questi visori virtuali come Oculus Rift, eccetera. Certo, ci siamo certo. Adesso? Ci siamo, anzi, tocco un argomento caldissimo, perché lunedì scorso è ufficialmente stato spedito, in realtà le spedizioni sono iniziate due giorni prima, ma lunedì era ufficialmente la data di lancio di Oculus definitivo. Che cosa è successo? È successo che i fortunatissimi che vivono negli Stati Uniti lo hanno già ricevuto, a me, che l'ho prenotato per tempo, arriverà entro qualche giorno purtroppo, ma il software definitivo di utilizzo di Oculus è già disponibile, com'è disponibile una sorta di store, di negozio, laddove si possono acquistare non solo giochi in realtà virtuale, alcuni molto belli, c'è questo Headrift, che è parzialmente italiano, che racconta di un astronauta disperso nello spazio, e voi immaginate di essere nel corpo dell'astronauta, di potervi guardare in giro e vedere attorno a voi i resti, i frammenti di questa base spaziale, non si capisce per quale motivo incidentata. Ebbene, non solo giochi, ma anche applicazioni virtuali, non ultimi, ci sono i primi film, presentati addirittura al Sundance, sia quest'anno che l'anno prima, in realtà virtuale. Che cosa vuol dire? Che voi non solo vedete un film, ma siete dentro il film. Da lunedì si possono già vedere, appunto, i fortunati che hanno già ricevuto Oculus possono già, come dire, godere di questa esperienza. Quindi tra qualche giorno ce l'avrai anche tu sulla testa, sugli occhi. Assolutamente, certo, e non solo, un paio di settimane dopo mi arriverà il concorrente di Oculus, cioè HTC Vive, e a fine anno, a ottobre, PlayStation, che molti ritengono essere il primo biglietto per la realtà virtuale massiva, lancerà per la propria console il proprio visore, che costa la metà degli altri e quindi anche per questo motivo è giudicato come uno dei potenziali successi della casa giapponese. Vabbè, allora ti richiameremo per sapere così qualche prova su strada di questi visori e di quello che ci si può fare, quanto ci si può divertire. Tu cosa farai subito? Hai già deciso a quale gioco o quale applicazione ti dedicherai? Come sai, ho un'astronave parcheggiata nel mio hangar che non vede l'ora di decollare. Insomma, eccomi lì. La tua astronave nella quale passi le ore, ti chiudi e passi le ore, perdi le notti, la cognizione del tempo a bordo dell'astronave. Beh, straordinario, sono sempre contenta di poter parlare con Emilio Cozzi. Io, come sempre, ricordo anche il tuo account di Twitter, che per gli amatori, si capisce subito la citazione, @ addio e grazie per. Però ti leggiamo in un sacco di riviste, ad esempio ti leggiamo sempre sul Domenicale, sulle 24 ore, questo ci fa sempre molto molto piacere. Grazie per essere stato con noi, Emilio Cozzi. Allora, alla prossima col visore. Anzi, piacere mio, vi appena aspetto. appena ti arriva faccelo sapere su Twitter, che così ci racconti un po' che cosa possiamo raccontare delle tue prime esperienze. Sono molto curiosa. Ci sentiremo a breve. A brevissimo allora, grazie Emilio per essere stato con noi. Buona continuazione, grazie a voi. Avete visto mondi maschi e femmine che si toccano, anche notizie che non mi aspettavo e numeri che non mi aspettavo in fatto di videogiochi. Adesso abbiamo una brevissima pausa perché, come sempre, dopo la viabilità delle 15.15 abbiamo l'appuntamento con il nostro gastronauta che, ve l'ho già anticipato, questa volta ci porta a casa sua. Scopriremo tra poco perché. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Il sabato del villaggio. A me liscio mi parte subito nelle vene, mi verrebbe voglia di farmi una ballatina qua attorno al tavolo dello studio. Beh, non si può, sto qua seduta. Intanto festeggiamo i 110 anni dalla nascita di Secondo Casadei, l'autore di Romagna Mia e anche il grande padre del liscio, e ci colleghiamo subito con, l'ho già sentito in sottofondo, con Davide Paolini, il nostro gastronauta. Ciao Davide. Ciao. Beh, se vuoi fare il liscio magari non al sabato a quest'ora, ma potremmo anche organizzarlo. Organizziamo una bella sera in balera, che come sai sono molto appassionata. Non sono una gran ballerina, ma imparerò prima o poi. Ti stiamo raggiungendo in Romagna? Sì, sono in Romagna. Vuoi che inizi dall'itinerario in Romagna? Ma sì, dai, facciamo un po' di trasgressione. Partiamo prima dall'itinerario e poi dalla tendenza, visto che già sentiamo quest'area di Romagna, abbiamo Romagna Mia in sottofondo, che fa subito festa, fa subito vacanza, Davide. Guarda, sono nel cortile di una trattoria proprio in Romagna, vicino al mio paese natale, che si chiama Galeata, e si chiama La Campanara questa trattoria, ed è veramente Romagna perché fa tutta una serie di piatti che sono tipici del territorio, a cominciare dai tortelli con gli strigoli, che magari molti non sanno cosa sono gli strigoli. Tortelli con gli strigoli, ok, sì, io prendo appunti quello che devo venire a mangiare in Romagna da te, ok, tortelli. Oppure delle strigoli. Straordinarie tagliatelle con i prugnoli. Prugnoli è un altro fungo che anche questo poco conosciuto, ma assai raro, e devo dire che con le tagliatelle proprio va benissimo. Poi il raviggiolo, ecco un'altra cosa importante di questo territorio, anche questo forse introvabile altrove. Ovviamente non manca il tortello sulla lastra, che diciamo è uno dei miei piatti preferiti. Anche questo, se non vieni in Romagna, non lo puoi mangiare. E poi si può anche chiudere con un dolce molto particolare che si chiama il caffè in porchetta. È un caffè un po' della mia infanzia, quindi ho sentito molto nostalgia appunto assaggiando questo prodotto. Lo ripeto, com'è? Diciamo, è fatto con un dolce con un caffè di recupero praticamente, mm-hmm. E poi viene fatto, diciamo, bollire, come si fa con il latte ruolo, che è anche un altro diciamo dolce tipico del territorio. E diciamo molti mettono anche la colla di pesce, però non ci deve essere la colla di pesce. Sì, diciamo diventa come una cosa molto morbida, e qualcuno dentro me mette l'anice stellato, insomma. Poi ci si può mettere anche un po' di fantasia, però quello di tradizionale è proprio col caffè di recupero, quindi della moka, quella che di solito rimaneva a casa. Certo. E quindi ti lo ripeto, Campanara, borgo di Pianetto, vicino a Galeata. Poi continuiamo questo viaggio, scendiamo a Forlì di fronte al Museo di San Domenico, che oggi è teatro di tantissime mostre molto importanti. C'è una piccola trattoria che si chiama Don Abbondio. Anche qui andiamo sul tipico romagnolo, e c'è una cosa divertente che ricordo sempre. Si chiamano un piatto che si chiamano i bassotti. Mm-hmm. I bassotti cosa sono? Praticamente sono delle tagliatelle che vengono condite, poi vengono messe in una teglia, sono messe in forno e quindi si abbassano e non sono servite come nella versione tradizionale, e sono veramente ottimi. A me piace tutte le cose rifatte, quindi il bollito rifatto, il minestrone rifatto, e anche questo si può dire che rientra in questa specie. Ma devo dire un'ultima cosa di questo ristorante, un'altra cosa interessante, che è la cassata alla romagnola. La cassata alla romagnola che prende, prende posto di quella siciliana, dove al posto della ricotta compare lo squacquerone. Squacquerone è un altro formaggio con radicchiolo ben caratteristico. Da squacquera vuol dire che si squacquera verso il basso. È una parola dialettale, però ormai è entrata anche nel gergo romagnolo, insomma, quindi nel gergo italiano. Quindi possiamo chiamarla, perché questo formaggio si chiama così ormai ovunque, però viene prodotto solamente nel confine tra Emilia-Romagna e in Romagna, quindi anche qui siamo veramente nel territorio. Poi ovviamente non manca in qualsiasi ristorante il Sansvese, quindi Marafone e Sansvese sono le due caratteristiche. Il Marafone è un gioco molto particolare e il Sangiovese è il vino tipico del E viva del la Romagna, e viva Sangiovese, siamo preparati. E poi c'è anche l'Albana di Bertinoro, però citiamo anche quella. Poi se saliamo, andiamo verso, diciamo, l'Appennino tosco-romagnolo, c'è un ristorante di lunga tradizione che si chiama Paolo Teverini, e questo ristorante, diciamo, è stato stellato per tanti anni. Paolo è stato un antesignano, ad esempio è stato quello che ha lanciato il formaggio di Fossa, perché nessuno lo conosceva molto bene. Lui, che è un cuoco molto importante, ha cominciato a usare nella sua cucina il formaggio di Fossa, e il formaggio di Fossa è dilagato ovunque, perché ormai si trova ovunque, è anche molto taroccato, perché si va anche fuori zone di quelle tipiche sul Rubicone, e che lo fanno, però non è tradizionale, non è nelle buche e non è che viene sotterrato per ben 4 mesi. Del ristorante Paolo Teverini vorrei ricordare l'hotel suo, perché io ho fatto una delle migliori colazioni del mattino, è veramente straordinario. È una piccola, diciamo, un piccolo albergo, senza presunzione di 5-6 stelle come sono molti, però devo dire che la colazione che si fa da Teverini è migliore di tanti altri hotel stellati con stelle, super stelle e via andare. Se poi andiamo al mare, allora lì devo segnare due posti, Ariccione e Azzurra. Azzurra è un ristorante molto importante per il pesce, Maurizio è un ristoratore molto conosciuto anche per la sua staffa. Lì veramente alla mattina lui via telefono chiama a mezzi porti d'Italia per avere il meglio del pesce, quindi è difficile che ci sia un menù, però si trova sempre tutto, dalle ostriche. Quello che c'è il meglio, insomma. C'è il meglio, fino al tonno. Sempre vicino a Riccione, sul lungomare di Rimini, a Miramare, c'è un altro ristorante che si chiama Guido. Questo lo consiglio per l'estate, perché si mangia sulla spiaggia quasi. E quindi è molto bello, perché appunto puoi mangiare magari a mezzogiorno o alla sera con il mare vicinissimo. Qui si mangia del pesce molto particolare, il pesce del giorno. Questo si mangia solamente pesce del luogo, è diverso dall'altro, qui si mangia pesce del luogo, si mangia anche un crudo di pesce del mattino, e anche questo è un prodotto davvero molto ma molto interessante. Se vuoi passiamo alla tendenza. Passiamo alla tendenza. Stavo leggendo in questo momento un messaggio che è arrivato da un ascoltatore che dice: caro gastronauta, strigoli, prugnoli e ravagiolo presenti in Maremma, Grosseto, per non parlare dei tortelli. Li troviamo anche a Grosseto. Ma può darsi che gli stridoli però sono quelli tipici, sono qui del posto. I tortelli si trovano in tutta Italia, dipende da come sono fatti. I tortelli sulla lastra sono unici, in Maremma non ce l'hanno di sicuro. Dentro è come una piadina sopra e sotto, di sfoglia di piadina, e dentro va zucca, e molte volte c'è anche la patata con un po' d'aglio e pepe. Scommetto che in Maremma non ci sono, perché adesso qualcuno da Grosseto adesso ci risponderà e ci scriverà, che così sappiamo, ci informiamo. Stridoli, si chiama stridoli. Stridoli. Allora è una forse si riferisce a una cosa. Ci sono sia naturali, ma oggi molti purtroppo sono in serra, quindi bisogna stare a vedere se sono veramente colti dal campo o colti dalla serra. Sono due cose completamente diverse anche di sapore in bocca, però per carità, bene, allarghiamo la zona. Allarghiamo. Facciamo un itinerario in Maremma. Così. Segniamoci, esatto, la Maremma come uno dei prossimi itinerari. La tendenza, visto che abbiamo mescolato le carte in tavola questa volta, Davide. Dunque, la tendenza è panino gourmet. Panino gourmet, mi piace tanto. Anche qua devo prendere appunti. Ormai sta imperversando, e diciamo che il guru è a Firenze, si chiama Alessandro Frassica, nome, nickname è Ino, ha un piccolo posto vicino al Ponte Vecchio, e autore di due libri, appunto uno sul panino gourmet. Lui usa tutti gli ingredienti di solito che vengono usati nell'alta cucina. Usa ingredienti toscani perché rispetta ancora un po' la tradizione locale, però tutta la sua, diciamo, la sua gamma ormai è orientata verso altro. Ad esempio usa la colatura di alici e di cetara, che questa non è facile da trovare. Ne abbiamo parlato già qualche volta come una specialità non facile da trovare altrove, anzi impossibile. No, è possibile perché si produce in pochissima quantità. Bisogna avere le alici, bisogna avere dei terzigni che sono delle botticelle di legno, bisogna pigiarle, poi far colare lentamente delle gocce sotto, fare un foro, raccogliere goccia su goccia, e quella poi è la colatura di alici che viene usata dopo 3 o 4 mesi, da cui diciamo si è posata. Dà un sapore straordinario e credo che sulle puntarelle di alici, sulle puntarelle la colatura di alici sia il toccasana. Poi usa scamorze, usa tutta una serie di formaggi molto particolari, usa dei salami e dei prosciutti, diciamo, di taglio, di vintage molto molto molto vecchi, quindi insomma diciamo che è una paninoteca diciamo stellata, ecco, possiamo dire così. A Firenze però c'è ancora contemporaneamente il locale più diciamo cliccato su TripAdvisor nel mondo, si chiama l'Antico Vinaio in Via dei Neri, ed è un vecchio locale che poi ora invece è ringiovanito con la presenza del figlio, però è un locale più tradizionale di Ino, però c'è sempre la fila fuori di stranieri perché è conosciuto, e qui da assaggiare la focaccia con la sbrisolona, una cremina di pecorino, delle melanzane grigliate, insomma un buon mangiare, più 150 etichette di vino da cui si può scegliere. Devo dire che Firenze è la patria del panino, ora non vorrei ricordare, ho già ricordato altre volte, il panino al Lampredotto, che è la mia passione, ma ormai i turisti che vanno a Firenze vanno a vedere la Galleria degli Uffizi e vanno a mangiare nei 3 carrettini il panino al Lampredotto, quindi sicuramente vale la pena di essere ricordato. Andiamo a Parma, ci sono anche qui 2 paninoteche, una storica, la Clinica del Panino, da Walter, tutti gli studenti lo conoscono. Ci sono 100 scelte di panini, anche 2 strati addirittura, con ingredienti insoliti. Qui non vorrei creare ancora una volta la polemica, però c'è anche la carne di cavallo e ci sono gli spilacci di cavallo. Ahimè, speriamo che alla porta non ci sia qualcuno. Vabbè. sì, ultimamente capita spesso a Radio 24, li affronto io per te. Io non ci sono, quindi ci sarei tu e vedrai. Poi l'altro si chiama Peppen e il panino che consiglio si chiama Spaccaballe. È un panino piccante, fatto con arrosto di maiale, insalata, pomodoro, maionese, ketchup e peperoncino. Beh, sai, tutti questi panini hanno dei nomi molto particolari. Ad esempio a Viareggio, alla Paninoteca Adone, ci sono 60 panini, tra cui uno che si chiama Poldo. Porchetta, frittatina alle cipolle e salsa verde. E poi ancora a Roma c'è Tricolore Panini, anche questo molto importante. Questo anche, diciamo, sul lusso, perché qui si mangia guancia di fassona e addirittura anche fegato grasso d'oca, pensa a te. Quindi anche qui rischiamo. Comunque non sono io che lo faccio, e quindi sicuramente rischierà questo signore a Roma. E poi basta, poi credo di aver finito, però sui panini lasciami dire ancora 2 cose, sì. Che sempre di più sta diventando il pranzo del mezzogiorno, nel senso che ormai si vede nelle città le fila nei bar, ecco, lì io sconsiglio il panino, perché di solito in molti bar si vede questa piastra che fuma di centinaia di panini uno sopra l'altro e tu ti porti via il grasso di tutti quelli precedenti, quindi direi che se uno vuole proprio un panino e affamato entra in un bar all'1 e non c'ha altro, chieda di pulire la piastra per prima cosa, oppure di farsi diciamo preparare il panino con una foglia di carta ad hoc, quella da forno, sotto, perché altrimenti si porta via veramente tutto quello che gli altri hanno lasciato. Verissimo. In fondo, come vedi, il panino con la ciriola, come dicono a Roma, con la mortadella, ormai si è trasformato, anche se devo dire che un bel panino con la mortadella io lo gradisco sempre, indipendentemente da tutti i panini gourmet. Non so tu come la pensi. Sai come la penso, Davide? La penso, guarda, ti saluto con questa canzone. Felicità e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. La penso che un bicchiere di vino con un panino, avevano ragione Albano e Romina, sono la felicità. Quindi Davide, grazie per tutti questi consigli. Ma Albano è un produttore di vino, eh? Dici che c'è conflitto di interessi? Non lo no, so. No, assolutamente. Beh, questo sarebbe ben poco rispetto a quello che leggiamo. Hai ragione. Grazie al nostro gastronauta per essere stato con noi. Grazie a Davide Paolini. Ciao, ciao Davide, ciao, al prossimo sabato. Ciao. Noi ci troviamo tra poco perché dobbiamo parlare di tecnologie con Enrico Pagliarini, a tra poco. Il sabato del villaggio. Ed eccoci ancora col sabato del villaggio, sono le 15:34 minuti e abbiamo in studio Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno, allora, buon pomeriggio, buonasera. Abbiamo parlato di Romagna. Buonanotte per quelli che stanno dall'altra esatto. parte del mondo. Abbiamo parlato di Romagna, quindi abbiamo parlato dell'altra metà della tua regione. Sì, per tutti i romagnoli consiglio di andare a vedere su YouTube un video di Marescotti. Ah, grandissimo, Marescotti, Romagna, che racconta com'è la Romagna. Che se uno poi ascolta questo bel racconto di Marescotti sulla Romagna, rappresenta l'Italia. Sì, allora andrò a vedermelo molto anch'io. Bello, molto divertente. Al termine delle 3 ore del sabato del villaggio, sì, me sì. lo vedrò. Ma non è il tema del nostro appuntamento di questa settimana. Io voglio introdurre il tema così. Questa è una delle canzoni preferite della mia vita, proprio in assoluto. Genesis, Follow You, Follow Me. Quando tu non vuoi perdere una persona, tu seguila sempre. Molto bello, tu la sì, segui, sì. E le stai sempre vicino, non la perdi mai. Anche per le cose. Sì, allora, da quando esistono gli smartphone, comunque da quando si sono diffusi gli smartphone, una delle cose che facciamo più spesso è cercare e trovare non solo contenuti online, ma anche cose fisiche, perché con le mappe, con la geolocalizzazione si è aperto un mondo, ma siamo ancora agli inizi, perché molto deve ancora succedere. Le mappe siamo abituati ad utilizzarle, dicevo, possiamo trovare luoghi, non so in quanti utilizzino i segnaposti. Io tantissimo, benissimo. Io tantissimo. Ti dirò di più, io quando vado all'estero ho un'app, ma ce ne sono tante, non solo quella che uso io, che mi permette di scaricare le mappe offline, perché poi quando sono in giro posso non avere la connessione se sono all'estero, e mettermi tutti i segnaposti, ad esempio banalmente segnaposto dell'hotel. Sì, sì. Se non devo cercarlo ogni volta. Oppure banalmente, è uno degli esempi che si fanno più spesso, l'automobile. Se la parcheggio in un grande parcheggio... che non è anche facilmente identificabile. Esatto. Ho l'app perché una volta a Milano ho parcheggiato la macchina in via Benadir e mi sono dimenticata e la cercavo in via Agadir, ma via Agadir, non sono Benadir e Agadir, sono lontane, ma sono proprio in tutt'altro colore. Però sai che ci sono i segnaposti anche nelle mappe normali, poi ci sono le applicazioni specifiche. No, io l'app proprio per il parcheggio, l'hai parcheggiata qua. Sì, ecco. Perfetto. Allora, queste sono alcune delle possibilità, ma ci sono tantissime altre possibilità. Oggi però possiamo usare anche degli strumenti che si collegano allo smartphone per tracciare delle cose che si spostano. Ce ne sono di due tipi. Allora, quelli un po' più grossi, sofisticati, costosi, che addirittura hanno una SIM dati all'interno, e quindi noi possiamo tracciare una cosa che si muove e va anche molto lontano, cioè andare è come dall'altra parte. Trova il mio iPhone o trova il mio telefonino, trova il mio oggetto al quale è applicato una questo. Cosa che va molto di moda ultimamente sono dei si chiamano tracker, cioè cose per inseguire altre cose, per i cani, cioè io metto adesso, poi mi viene sempre il dubbio, se il cane si allontana una ragione ce l'avrà, perché, povero, quindi perché volete trovarlo? Vuol dire che il cane non sta bene con voi, quindi lasciatelo andare. Beh, non funziona esattamente così. Lo si può fare anche per i bambini, non sto scherzando, ci sono degli aggeggini che si mettono, che ne so, nello zaino del bambino, e uno sul proprio smartphone o sul computer di casa vede dove si trova questo oggetto, sperando che rimanga sempre col bambino, perché certo, se lo zaino viene buttato nel fosso e il bambino va da un'altra parte, si sta allargando questo mondo, ad esempio alle biciclette. Che vengono rubate a una velocità della luce. Sì. Allora, ci sono degli allarmi, degli antifurto per biciclette. Allora, se sono posticci sono poco utili, invece ci sono delle biciclette nuove elettriche che hanno integrato un chip. Ah, cioè dici, se sono posticci, se è una cosa che viene attaccata, Il ladro poi la toglie, certo, e non serve a niente. Però ci sono delle biciclette nuove, tipicamente le biciclette a pedalata assistita, le biciclette elettriche, alcune le più costose, più sofisticate. Ho parlato recentemente con i ragazzi di Piaggio che hanno fatto una bicicletta nuova bellissima, ma questo è un esempio, ce ne sono anche altre, che hanno integrato questo sistema. Quindi se malauguratamente ci rubano la bicicletta, noi possiamo tracciarla. Se siamo veloci e non è ancora partita per la Romania, senza offesa per la Romania o per l'Ucraina, che mi sembra un posto molto dove c'è molto spazio di biciclette rubate, facciamo in tempo magari a recuperarla. Io non ho idea, però effettivamente sì. Dopodiché ci sono invece dei tracker che servono per cose che stanno vicine a noi, perché questi che ho citato hanno anche un costo di abbonamento, perché se c'è una SIM devo pagare i dati di questa SIM, però sono molto utili, perché appunto se una cosa sparisce, va molto lontana, o comunque io voglio seguire una cosa lontana, posso inseguirla. Per cose che dovrebbero starci vicino e che non sempre riusciamo a trovare velocemente, tipicamente le chiavi, uno o se le infila in tasca oppure le mette nella borsa, nello zainetto o in qualsiasi altra parte. Allora, per trovare molto facilmente queste cose, sono nati negli ultimi tempi anche in questo caso si chiamano tracker, sono molto semplici, molto facili, hanno un costo tutto sommato abbastanza limitato, perché costano alcune decine di euro. Ce ne sono, direi, già di varie marche, varie proposte. Sono Bluetooth e hanno una gittata di non più di 100 metri. Ah, cioè se perdo le chiavi e non so dove sono, non se partono per altre destinazioni. Allora, ci sono dei sistemi per far sì che, anche se sono in Piazzale Lotto, che è qui di fianco alla nostra sede, e io sono lontano, potrei scoprirlo, però sono un po' complicate, soprattutto richiederebbero che il mondo fosse dotato di queste tecnologie, ci fosse una community di persone tutte collegate. Nel senso che uno che ci poi sta a meno di 100 metri ci passa vicino, però è un po' complicato, diciamo che adesso non funziona. Comunque, allora, alcune proposte sono nate negli Stati Uniti. I francesi hanno fatto un sacco di startup con tracker di questo genere, quindi sono cose che stanno diventando sempre più popolari. Ma c'è una startup italiana con un nome molto semplice, che si chiama Filo, che ha lanciato recentemente una applicazione di questo genere. Allora, è con noi Daniele Gulizia, che fa parte del team di Filo. Benvenuto, Daniele. Buongiorno a tutti. Come funziona questo? Allora, è come un bottone, grosso modo, giusto? Un po' più grosso di un bottone. Sì, è diciamo due pollici, è un quadrato di due pollici, poco più alto di 3 mm, quindi di dimensioni ridotte. Allora, spiegaci come funziona. Essenzialmente si collega Filo all'app sul telefonino, e dopodiché si aggancia Filo alle chiavi, piuttosto che lo si inserisce nel portafoglio o nella borsa. All'interno dell'app troviamo una mappa che segnala dove si trova Filo, e di conseguenza sappiamo esattamente l'indirizzo. Dopodiché, quando siamo in casa, basta schiacciare il pulsante suona dall'app e Filo inizia a suonare, così si può sentire dov'è. Se per caso non si sente Filo, perché magari le chiavi sono dentro la tasca della giacca, c'è una voce che ti indica se sei vicino o se sei lontano. Quindi ti metti a cercare in casa. All'interno di casa si fa abbastanza facilmente. Sì, ecco. È molto semplice. È una cosa. Vale anche l'inverso, giusto? Cioè, se io ho in mano le chiavi che hanno attaccato questo aggeggio e non trovo lo smartphone? Cosa succede? Abbiamo inserito un bottone su Filo, per cui schiacci questo bottone e il telefono inizia a squillare. C'è Andrea che ci chiede al 349-238-6666 se funziona anche per ritrovare il filo del discorso. Quello non... mi sa di no. Quello temo di quello no. Quello no. No, però posso dire che ne stiamo aggiungendo e a breve rilasceremo una nuova funzionalità che è la Comfort Zone. Questa è proprio una nostra novità. Praticamente cos'è? Ci sarà la possibilità di definire un raggio d'azione per cui quando filo esce al di fuori di quel raggio d'azione il telefono inizia a suonare. In questo modo, certo, se siamo al ristorante e ci dimentichiamo il portafoglio sul tavolo, come usciamo, andiamo via, ci allontaniamo di quegli 80 metri, inizia a suonare. A questo punto sappiamo che ci siamo lasciati in giro qualcosa. Sì. Certo, cioè noi stiamo uscendo, le nostre chiavi stanno uscendo, ma il nostro portafoglio è rimasto indietro. Sì, oppure esatto, il portafoglio se ne sta andando con le gambe di un altro. Ecco. Certo. Un'altra cosa interessante, ad esempio, per quanto riguardava l'esempio di prima, quello della macchina, quando filo, immaginiamo di lasciare filo nella macchina, noi ci allontaniamo dalla macchina, la posizione di filo viene segnata dentro l'app e in questo modo sappiamo esattamente dov'è, anche se non ce l'abbiamo più appresso. Quando vogliamo ritornare alla macchina basta aprire l'applicazione e sulla mappa viene indicato dove si trova. Ah, quindi lascia una traccia sulla mappa. Esatto, diciamo che sigilla l'ultima posizione registrata, quindi anche trovato, quando si sì, perde quel centinaio di metri che è la portata di filo, comunque viene localizzata la posizione. Sì, sì, questo infatti è interessante. Proprio, sì, sì, proprio il nome di sì, filo è Find and Locate. Trova e localizza. Ah, ma questi non mi fanno impazzire. Sì. Poi devo dire che non costa tanto. Sì, costa quindi... una trentina di euro. Sì, sì, costa... vedo sì, che sì, un singolo 29,90 perché ho aperto il sito, la confezione da 3, 69,90. Insomma, sì, sì, sì, devo sì, dire sì, che una... avete avuto una bella idea, mi piace sì, molto. Sì, ultimissima domanda. Allora, ha una batteria, giusto? Questo... Ah, sì, sì, ah, vabbè. E questo rientra anche nel nostro cavallo di battaglia, perché in altri... tipi di device la batteria è sigillata all'interno di filo, mentre la nostra batteria è rimovibile, quindi sostituibile, ed è una delle classiche pile da orologio, quindi con poco più di un euro si può sostituire. Sì, dovrebbe durare un annetto. Sì, esatto. Più o meno, poi dipende, certo. Poi tramite l'app, che è invece rilasciata gratuitamente, filo può essere continuamente aggiornato. Sì. Funziona sia per Android che per iOS. Esattamente. Molto, molto bene. Molto bene, noi ti ringraziamo. Quanti siete? Perché siete una giovane startup, giusto? Ma guarda, siamo nati nel 2014 e mm-hmm, abbiamo avuto davvero una bella crescita. Ormai siamo poco più di 10 persone. Vabbè, siete beh, ancora... siamo già un pochino. Beh. L'altro nostro orgoglio è che Filo è stato interamente pensato, realizzato e costruito in Italia, con produttori tutti, con fornitori tutti italiani. Fantastico, proprio anche la manifattura è fatta in Italia. Sì, sì, sì, sì. Ah. Sia il case che anche poi la scheda del processore. Made in Italy. Fantastico. Molto bene. Bravissimi. Daniele, grazie per essere stato con noi. Faccio il tifo per le startup italiane, sono veramente bravi questi sono ragazzi. Sono molto bravi. Daniele, grazie, a presto. Buon lavoro e saluto a voi, tutti i tuoi colleghi e compagni di avventura. Ci ritroviamo tra pochissimo, Enrico. Pausa, sì, una breve poco, pausa, poi ancora insieme. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta il sabato del villaggio. È il momento con Enrico Pagliarini di parlare dell'app della settimana, solo che adesso vi racconto il retroscena. Mi ha chiesto di installarla prima di venire in onda, allora io sono qua che ci gioco e quindi vai avanti tu, Enrico, spiega cos'è che cerco di configurarla. Allora, da pochi giorni, cioè dal 31 marzo, è disponibile anche in Europa una applicazione che è diventata popolarissima in pochissimo tempo in Giappone, che si chiama MiTomo ed è della Nintendo. Allora, la prima volta che la Nintendo sbarca nel mondo degli smartphone. Nintendo è sempre stata molto rigorosa e ha sempre detto o controllo io tutto, cioè quindi anche l'hardware. Uh-huh. Nintendo è famosa per le console da videogioco prodotte completamente dall'azienda, però visto che il mondo dei giochi, dei videogiochi sugli smartphone sta diventando veramente molto ricco e molto vasto, hanno dovuto cedere e hanno creato questa applicazione che molti ritengono è il primo passo all'interno di questo mondo di Nintendo. Poi vedremo altre cose, perché non penso che potranno fare molto business con questa, che è un social network e gioco. È un mix tra appunto social network, rete sociale, rete di amici, e infatti quello che noi volevamo fare era diventare amici su Mitomo. Allora, è molto semplice nell'idea, poi può diventare complessa perché ci sono un sacco di cose che si possono fare. Si crea un personaggio e si può partire dalla propria foto. L'applicazione crea questo personaggio che è un Mi. Se uno conosce il mondo di Nintendo, sa che cosa sono. I Mi sono dei personaggini che vengono utilizzati in alcuni giochi di Nintendo. Comunque crea una specie di avatar e in realtà diventano amici gli avatar. Certo. Non direttamente io e te, ma i nostri amici. Il mio si chiama Bubu. No, io l'ho chiamato Marta e mi ha chiesto ma qual è il tuo cibo preferito, perché voleva sapere. Io gli ho messo il parmigiano reggiano, io ho scritto carboidrati e mi ha risposto carboidrati, sembra delizioso. Però dovremmo, allora, visto che si possono utilizzare, allora possiamo o diventare amici in prossimità, nel senso che lui ti geolocalizza, certo, e dice vicino a te c'è Marta e possiamo diventare amici in questo modo, oppure utilizziamo i contatti Facebook e Twitter, però dovresti agganciare Twitter. Io lo sto agganciando a Twitter, però guardate che non è che dopo non so se lo tengo installato. Comunque il consiglio è provate, perché secondo me questo è uno dei tipici, non so se chiamarlo social network o gioco, è una cosa un po' molto giapponese. O lo ami o lo odi. Cioè sei allo stesso tempo il Tamagotchi di te stesso. Una specie di Mitomo. Comunque devo dire che a me Nintendo è simpatica. Non ho mai giocato a nulla di Nintendo, devo dire. Non sono un grande videogiocatore. Però questa è un'azienda straordinaria, perché da quando faceva carte da gioco, Nintendo è nata facendo carte da gioco prima dei videogiochi, nelle fasi di trasformazione del mondo dei giochi e poi dei videogiochi, Nintendo è stata data per morta tantissime volte. Cioè, ad un certo punto gli analisti dicevano questi qua non ce la fanno e non arriveranno al panettone, e invece Nintendo ha sempre trovato grandissime idee ed è rinata più volte, e io penso che questa sia la dimostrazione che hanno capito il mondo. Ci hanno messo un po', ma anche questo è tipico dei giapponesi: finché non capiscono bene una cosa non ci si buttano, ed è anche indice di serietà. I giapponesi sono straordinari, magnifici e meravigliosi. Provatela, è gratuita. Poi, volendo, se uno va avanti può anche spendere dei soldi dentro l'app, però c'è la base gratuita. Devo dirti che a me ha già detto, come indicazioni per l'uso, non puoi usare abiti che non si abbinino con quelli che sei, già mi assomiglia, deve aver già tutto abbinato. Sì, perché puoi vestire l'avatar, puoi fargli. Bene. Rispondo solo al volo a un messaggio di un ascoltatore che chiede dove si compra Filo. C'è un sito, filotrack.com. Grazie Enrico per essere stato con noi. Al prossimo sabato, adesso parliamo di cinema. Vedi quella sagoma scura laggiù? Quella è Ustica. Il 19, 81 vittime. Un aereo civile che precipita in mezzo al mare e nello stesso giorno un caccia libico viene abbattuto sui monti della Sira. Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo! Se ne deve andare, ha capito o no? Okay. Rischiamo di farci tutti molto male. Sai bene che la storia di questo paese è segnata dalle stragi. Non si fermeranno mai, non posso. E questo era un audio tratto da Ustica, un film ispirato alla tragedia del 1980, un film di cui abbiamo sentito il radiodramma a Radio 24. Esce questo fine settimana al cinema e chiediamo subito al nostro super esperto se vale la pena andarlo a vedere. Ciao Franco D'Assisti, ciao Franco. Sì, ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ustica, uno dei grandi gialli della storia d'Italia, una delle stragi delle quali non si è mai capito bene come fossero andate davvero le cose. Ci ha provato Renzo Martinelli, che tra l'altro sarà nostro ospite alla Rosa Purpura, più tardi lo ascolteremo, intervistato da Boris Sollazzo in maniera molto approfondita e molto appassionata, a raccontare come è nato questo lavoro, che è nato appunto dalle carte del giudice Rosario Priore, un lavoro molto documentato che riporta in scena a tanti anni di distanza dal muro di gomma quello che accadde la notte del 27 giugno 1980, con l'abbattimento del 19 dell'Itavia e la morte di 81 persone. È uno dei film che ci ridà il Martinelli migliore, quello che si impegna nel raccontare la storia civile di questo paese, e lo fa lontano da come dire, contaminazioni ideologiche, lo fa stando molto molto sui documenti. È un film importante, magari dall'estetica un po' televisiva, però importante per quello che ci dice su un fatto che ancora è una ferita aperta nel cuore del nostro paese. Franco, cosa consigliamo a chi ama invece l'adrenalina e film d'azione? Sì, per chi ama l'adrenalina c'è sicuramente Desconocido, film spagnolo che peraltro, come dire, prende, pesca molto da tanto cinema recente americano. Pensate a tutti quei film, a partire da Speed, in cui è vietato fermarsi, non si può andare sotto una velocità perché altrimenti l'autobus esplode, il terrorista spara, eccetera, eccetera. Qui il tema è che Carlos, direttore di banca con una bellissima famiglia, ma piuttosto spregiudicato, con i clienti che hanno problemi, un giorno esce di casa, sembrerebbe il giorno perfetto della sua vita, o uno dei tanti giorni perfetti della sua vita, sale sul suo SUV lucido e lì in pochi secondi la sua vita cambia. Le sue certezze si sgretolano, riceve una telefonata che gli dice: non puoi più uscire da quella macchina perché se esci la macchina esplode. E chiaramente quella sorta di scatola diventa il punto di vista dal quale il protagonista cercherà di risolvere la situazione, ma anche di ripensare un po' alla sua vita. È un film, come dicevo, che sembra fatto apposta per un remake hollywoodiano, ma ormai Europa e America si rimbalzano i film un po' uno con l'altro, però vale la pena vederlo soprattutto per l'aspetto tecnico, perché è montato, sonorizzato molto bene, ha vinto dei Goya, anche gli Oscar spagnoli proprio su queste categorie, e quindi per gli amanti del genere Desconocido è un film da non perdere. Tra i titoli in uscita questo fine settimana anche qualcosa per cinefili, direi. Sì, parliamo anche di Hitchcock Truffaut, il film che uscirà al cinema i prossimi 4, 5 e 6 aprile, ovvero lunedì, martedì e mercoledì, per 3 giorni, ma è un film davvero imperdibile per gli appassionati di cinema, perché nasce da un libro imperdibile per tutta la critica cinematografica per più generazioni. Nel 66 Truffaut intervista Hitchcock. Truffaut è un critico dei Cahiers du Cinéma, Hitchcock è già Alfred Hitchcock ovviamente, ma non è ancora valutato come un maestro. Ecco, a questo servirà. Truffaut si oppone a questa visione di Hitchcock come un lord inglese in mano a Hollywood per fare film di cassetta. Dice: attenzione, Hitchcock sta cambiando il nostro modo di percepire la paura e anche di scrivere il cinema, la grammatica cinematografica, è un maestro. E allora va a fare questa intervista. Sono interviste lunghissime su tutti i suoi film, ma su tutto il cinema davvero, a tutto tondo, e quel libro è stato il testo di riferimento di decine, centinaia di critici in tutto il mondo. Oggi un film racconta, tra l'altro con le voci originali di Hitchcock e Truffaut, racconta proprio quella storia, ci fa sentire le voci e ci fa sentire anche le voci di grandissimi registi come per esempio Scorsese o Wes Anderson, che raccontano quanto per loro sia stato importante quel libro. Insomma, una goduria per tutti i cinefili, ma un film davvero per tutti gli appassionati che vogliono capire meglio cosa volesse dire essere maestri, come in questo caso. Infine, bambini e ragazzi, cosa portiamo a vedere i più piccoli? Sì, Marta, facciamo un salto insomma nel family, perché c'è un bel film, un bel film d'animazione assolutamente per tutta la famiglia, che si intitola Billy il Koala e racconta appunto la storia di un cucciolo di koala di grande coraggio che vuol diventare un avventuriero come suo padre, un grande esploratore, ma non tornerà subito a casa, si perderà dentro un viaggio pieno di deserti australiani, di belle creature incontrate, di paure, insomma è il classico viaggio di crescita che questa volta è fatto da un koala, in altri cartoni è stato fatto rispettivamente da pulcini, pesci, eccetera eccetera, ma il film ha una bella animazione e devo dire anche una certa ironia di fondo, e quindi assolutamente consigliabile per tutta la famiglia. Grazie a Franco D'Assisti, l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Grazie Marta, ci sentiamo alle 18 con La Rosa Purpurea e settimana prossima qui con i tuoi ascoltatori. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia. Naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Il sabato del villaggio. La seconda ora del sabato del villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Nella terza ora, come sempre in diretta dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Il numero per i vostri SMS 349-238-6666. Va bene anche per i vostri WhatsApp. Intanto Carmine da Positano mi ha mandato la ricetta del cattò di patate Alice Provola. Io adesso non ve la posso leggere in questo momento perché poi mi viene troppa acquolina, ma quasi quasi me la preparo stasera. Grazie Carmine. Invece su Twitter, il mio account è @MartaCagnola, si sta scatenando il dibattito sul video molto divertente di Ivano Marescotti che ha citato prima Enrico Pagliarini. L'ho appena ritwittato, @MartaCagnola, il mio account di Twitter. Cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Una seconda ora in cui ancora parleremo tanto di uomini e donne, o meglio passioni maschili che hanno conquistato le donne. Tanti libri tra novità e classici da recuperare nello spazio di Alessandra Tedesco, che ci spiega come le dimensioni contano. Dimensione dei libri, ovviamente. Nel nostro appuntamento con Maria Luisa Pezzali, i vestiti ungendered, ricordate la vecchia moda unisex? Beh, no, tutto diverso. Poi parleremo di uno sport che in questo momento è particolarmente amato dalle donne, ma anche dagli uomini, che è lo snooker. Scopriremo insieme di cosa si tratta se già non lo conoscete, ma partiamo subito con un film che, come ogni tanto capita, voglio consigliarvi personalmente. Nostro Signore del sangue che corre nel buio delle vene. Reggi il mio braccio sul volante. Regola la forza dei miei piedi su acceleratore e freno. Proteggimi. E fa che niente mi accada. La mia sorella. Non puoi tornare qua dopo 10 anni e dire che questa è casa tua. Ma ci avrò pure diritto anch'io ad avere qualcosa dalla perdita di un padre. Mio fratello è un ex pilota. Un film che mi è piaciuto tantissimo, l'ho visto in anteprima questa settimana, l'ho visto mercoledì mattina, uscirà la prossima settimana, quindi non cercatelo in questo weekend al cinema. I film di questo weekend al cinema sono quelli di cui vi abbiamo parlato poco fa con il nostro Franco D'Assisti, questo esce giovedì prossimo, ma non perdetevelo, è un mio consiglio personale se vi fidate un pochino di me, perché è davvero uno dei film italiani che mi hanno sorpreso in maggior misura in questa stagione. Allora, veloce come il vento. Giulia De Martino è una ragazza che vive con il fratellino Nico, col padre e con la grande passione dei motori. Succederanno delle cose nella sua vita, nella sua famiglia, che la porteranno a riavvicinarsi per forza con un fratello che è molto particolare, che si chiama Loris, che è un ex pilota, come avete sentito dal trailer, ma anche un ragazzo dalla vita molto, molto problematica, ma che tornerà alle corse per allenare lei. La passione per i motori, l'Emilia, che è la terra, non solo di cui parlavamo poco fa con Enrico Pagliarini, ma è che è la terra dei motori, che è la terra di questo film, che è anche la terra di Stefano Accorsi, che è protagonista di questo film diretto da Matteo Rovere insieme a Giulia De Martino. Ne abbiamo parlato proprio con Stefano Accorsi, che racconta della sua passione per i motori e non solo. I motori mi piacciono, poi raccontando questa terra che è la mia terra, cioè l'emiliano romagnolo è la lingua dei motori. In Emilia ci sono alcune fra le case più importanti di macchine, di moto, insomma, del mondo. Quindi è una cosa che io respiro fin da piccolo, cioè gli amici che prendevano la moto il fine settimana andavano a farsi la futa, non so, ne ho a decine. È stato divertente poter andare in circuito con certe macchine, quello è stato divertente. Poi chiaramente ci si rende conto di quanto amare la guida sia una cosa e pilotare sia un'altra, cioè pilotare è davvero una professione, una passione che ti richiede un impegno costante e millimetrico per ore e ore durante il giorno, insomma, quindi quella veramente è una vocazione che uno ha. Però ci siamo divertiti, ecco. I momenti in cui abbiamo avuto paura, devo dire, sono stati tanti, ecco, però la paura serve perché ti tiene vivo. In questo film in alcuni momenti si riesce anche a ridere, a sorridere, anche grazie alla lingua che appunto hai... Sei tornato a masticare? E mi sono reso conto facendo questo film di quanto mi sia mancato. Cioè, alla fine, quando hai a che fare con le tue radici, secondo me c'è qualcosa di ancora più profondo e sorprendente che puoi lasciare sullo schermo. Quindi tornare a girare anche nella mia terra è stata una cosa che mi ha, non so, mi mancava, era da tanto che non lo facevo. Quindi, e poi questo personaggio, appunto, è stato un percorso di avvicinamento lungo a Loris, ma poi anche di allontanamento lungo. Cioè, è stato un personaggio che mi ha toccato, devo dire, nel profondo. Sono personaggi che, essendo così nudi, ti mettono a nudo, perché sono dei momenti un po' estremi, no? di performance, diciamo. Quindi sei portato davvero ad un contatto profondo con delle emozioni, e poi uscire da lì prende il suo tempo, più di quanto potessi immaginare. Lo guardi con tenerezza sul manifesto, Loris? Sì, lo guardo con grande tenerezza, è un personaggio al quale voglio molto molto bene. E poi, appunto, essendo stato un personaggio così forte, è stato lungo il tempo per entrare e, come dicevo prima, per uscire, però mi porto dentro un gran bel ricordo. Ballerino, che ti è successo? Ma cosa è successo a te, oh? Poi che cazzo sei? Se non vinco il campionato, lui si prende questa casa. Casa mia, perdiamo, casa mia. Ma guida come a Luna Park! Cos'è sto collo? Sto qua è il collo di un colibrì. Mi alleni tu. Alleno. Sinistra, destra e poi apri, quarta e quinta, bacca boia, c'ho tutto qua. Dove andiamo? Dove andiamo? Cosa facciamo? Perché, oh, bacca boia, dumarò. Liberatela quella testa. Veloce come il vento, cuore, motori, tante, tante corse. È un film davvero molto particolare per essere un film italiano, un film che esce la prossima settimana. Ma come si sono preparati gli attori, come si è preparato Stefano Accorsi a questo ruolo? Mi sono preparato su due fronti, sia per tutto l'aspetto legato alla guida, al pilotare le automobili, e questo anche assieme a Matilde, lo stesso Matteo, ci siamo fatti un po' di circuiti. E poi chiaramente invece per quello che riguarda il personaggio, scusa, di Loris, quindi i problemi con la droga, quindi tutto il dimagrimento, il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro lungo, devo dire, è faticoso, perché perdere così, insomma, in modo verticale così tanti chili in poco tempo e doverli tenere per il tempo delle riprese ha richiesto uno studio con un dietologo, adesso non voglio neanche annoiare, però di tempi, di modi, eccetera, di diete d'avvicinamento, diete d'allontanamento, che comunque alla fine mi ha coinvolto per almeno 6 mesi, ecco. Prendere massa muscolare, quindi un lavoro in palestra con un personal trainer, e dall'altra parte chiaramente il rappresentare una pilota che guida da quando è piccola, quindi ha una conoscenza totale del mezzo, ha richiesto chiaramente uno studio sul campo, quindi come si tengono le mani sul volante, banalmente tutte piccolezze tecniche per avvicinarsi sempre di più a una verità, a una realtà che io chiaramente non potevo conoscere, quindi lavoro più che altro tecnico, e poi chiaramente la parte di conoscenza del personaggio, il rapporto con il fratello, che è un po' il perno centrale del film, al di là delle scene d'azione, delle scene di macchine, costruire un rapporto familiare vero, sincero e autentico. Veloce come il vento, dunque, dal 7 aprile al cinema, un film di Matteo Rovere interpretato da bravissimo Stefano Accorsi e la giovane e già fortissima Matilda De Angelis, che sono Loris De Martino e Giulia De Martino, questi due fratelli nel mondo dei motori, nella caldissima Emilia. Un film davvero da vedere, 7 aprile esce. Un mio consiglio, poi sappiatemi dire se vi è piaciuto. Adesso è il momento di informarci su come stanno andando le strade, le autostrade in questo momento in Italia, e ci ritroviamo tra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Il sabato del villaggio. E nel sabato pomeriggio di Radio 24 parliamo sempre, come sapete, di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche di tecnologia, di piaceri della vita e di libri. I've seen the lights go out on Broadway. I saw the Empire State laid low. Life went on beyond the Palisades. They all bought Cadillacs and left there long ago. Un Billy Joel ci sta sempre bene. Io sono favorevole a un Billy Joel a ogni puntata. Questa volta c'entra questa Miami 2017. Lo chiediamo alla nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta, c'entra e come? C'entra, ma con c'entra un libro? Moltissimo. Perché? C'entra con uno dei libri di cui si sta parlando di più in questo momento. Ed è uno dei libri anche, come dire, rappresentativo di un fenomeno che si sta verificando ultimamente, cioè i libri di grandi dimensioni, i libri che superano, diciamo, le 800 pagine. Un tempo in libreria nessuno se li filava, adesso pare che vadano di moda sia in Italia che all'estero. Allora, cosa c'entra questo Billy Joel? Il libro di cui parliamo si intitola Città in fiamme. L'ha scritto l'americano, è un'opera prima di Garth Risk Holberg, pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Massimo Bocchiola. Sono all'incirca 1000 pagine. Questa canzone c'entra perché lo stesso autore, che racconta spesso nelle interviste che, come dire, l'idea globale totale del romanzo, della trama, gli è venuta dopo l'11 settembre, quindi già scosso dagli avvenimenti che erano accaduti a New York l'11 settembre. Un paio d'anni dopo era in pullman, ha sentito casualmente questa canzone che parla appunto di una sorta di distruzione anche metaforica di New York. E questo gli ha fatto venire un'idea, parlare della distruzione, sempre in forma di metafora, di New York, però raccontando una storia ambientata fra il 1976 e il 1977 e che culmina nel luglio del 77 con il grande blackout di New York. Da qui il titolo Città in fiamme, perché naturalmente durante il blackout di New York ne accaddero di cotte e di crude, nel senso che vennero prese d'assalto negozi, ci fu una violenza inaudita, insomma si scatenò una violenza, e quindi lui ha messo una sorta di parallelismo, ha creato fra quello che è accaduto l'11 settembre e quello che accade invece nel luglio del 77 con il blackout di New York, quindi la distruzione di una città dal punto di vista metaforico. Ora, io devo dirti, a me le storie ambientate negli anni 70 del Novecento affascinano tantissimo. A me in generale affascinano tantissimo i romanzi ambientati e scritti soprattutto, ma anche ambientati nel Novecento. Però io questo libro l'ho visto. Adesso Alessandra, parliamone. Allora, io l'ho letto e quindi tutto? Ti posso dire tutto. Lo sto finendo proprio in questi giorni, ma mi manca veramente pochissimo. Allora, ero perplessa all'inizio perché ho detto 1000 pagine, ma ecco, no, io sono così genere, perché è un librone. Ti dico la verità, quando un autore è noto, il librone non mi spaventa, ho voglia di affrontarlo. Un librone così come opera prima preferisco avere qualche parere, ecco. Allora, ci sono state anche delle polemiche perché in America è stato molto apprezzato questo romanzo. Pensa che l'editore americano ha sborsato ben 2 milioni di dollari di anticipo per poterlo pubblicare. Devo dire allora che se vale 2 milioni di dollari l'autore... Vabbè, però qualcuno dice, è stato costruito a tavolino, quindi adesso ci si fa la pubblicità sopra perché insomma bisogna venderlo. Allora, io appena ho iniziato a leggerlo ho sentito come una sorta di vertigine, perché c'erano troppi personaggi, storie parallele, e non riuscivo a seguirlo. Però in una sola sera, e l'ho anche twittato, quindi l'ho detto anche in precedenza, ne ho lette 140 di pagine, cioè tutte di filato, perché non riuscivo a staccarmi. Okay. Se tu mi chiedi perché non riuscivi a staccarti, io non te lo so spiegare, nonostante abbia letto tanti libri in vita mia. C'è qualcosa che ti spinge ad andare avanti in questa narrazione. Sarà che ci sono tanti personaggi e che poi lentamente capisci che le storie di questi personaggi si intrecciano. C'è questa ragazzina Sam che ama il movimento punk, la musica punk. A un certo punto, la notte di Capodanno fra il 76 e il 77 in Central Park, le sparano, e chi è che la trova? La trova un altro personaggio di cui abbiamo iniziato a seguire le vicende all'inizio, Mercer, che è un nero nero, è un insegnante, è un omosessuale ed ha una relazione con un bianco che è il rampollo di una famiglia ricchissima di New York, quindi anche qui dei rapporti contrastanti. Poi c'è la sorella del rampollo di questa famiglia newyorkese. Insomma, i personaggi sono veramente tanti e diciamo che si intrecciano lentamente in queste mille pagine. Ovvio, qualche momento di stanca c'è in queste mille pagine. Io già normalmente dei libri di 300 toglierei 50 pagine, qui qualche cosa l'avrei tolta. Però per essere una che non ama normalmente i libri corposi, ti posso dire che Città in fiamme è un libro che merita, è un romanzo che merita. E quando ho incontrato appunto l'autore Garth Rhys Goldberg, la prima cosa che gli ho chiesto, ho detto: va bene, debuttare però con mille pagine non è stato un azzardo? Sentiamo cosa ci ha risposto. Devo dire che certamente ci sono voluti 1 o 3 anni per scriverlo, questo libro, e nel corso di questi 3 anni me lo sono detto e ripetuto parecchie volte che questo sarebbe stato un libro assolutamente impubblicabile, un po' per la portata che aveva questo libro, un po' perché io non ero nessuno e un po' perché anche molto probabilmente non è che credessi poi al 100% nel mio talento e quindi non ero neanche sicuro di riuscire a farcela. Poi man mano che passava il tempo, però al tempo stesso mi dicevo: ma io questo libro lo amo, come amo molti dei libri che ho letto di questo tipo. E allora, come dire, nonostante tutto quello che si dice sul fatto che ormai l'attenzione dei lettori vada sempre più scemando, che c'è sempre meno gente che insomma legge libri lunghi e così, mi sono reso conto che invece non è proprio poi così tutto vero. C'è ancora molta gente che adora l'avventura, che si lascia tirare dentro dei libri di 2000 pagine, come per esempio l'opera di Elena Ferrante, che lei molto intelligentemente ha suddiviso in 4 volumi. Ma insomma, credo in questa indomita anima del lettore che riesce a superare anche queste difficoltà. There's something indomitable in the spirit of the reader, I think. I've seen the lights go out on Broadway. I saw the Empire State laid low. Beh, devo dire che mi pare anche un libro tosto, quindi a chi lo consigliamo, Alessandra? Guarda, io lo consiglio a persone sicuramente che hanno più di 30 anni, altrimenti veramente fanno fatica un po' a seguire, perché è ambientato appunto negli anni 70 della New York violenta, piena di droga, dell'epoca punk, eccetera. Noi, insomma, che abbiamo più di 40 anni, almeno una eco di quelle cose l'avevamo, e sicuramente i 50-60enni avranno anche forse una nota nostalgica nei confronti di quel tipo di mondo. È un romanzo appunto tosto, come dicevamo, e anche lo consiglio quindi a uomini e donne, diciamo dai 30 anni in su, che abbiano anche un bel po' di pazienza, visto che si tratta di 1000 pagine. Ho riconosciuto l'interprete. Sì, l'interprete Paolo Noseda, l'interprete che ci ha gentilmente prestato la sua voce in presa diretta per fare la traduzione del. Che è anche il traduttore del libro? No, il traduttore del libro è Massimo Bocchiola. Perfetto. Alessandra, c'è un altro libro del quale però io ti voglio chiedere proprio a livello personale, perché stiamo parlando di libroni e in questi giorni io leggo spesso e leggo anche su Twitter, sui social, è il libro del momento, è il libro da leggere, La scuola cattolica di Albinati. Però anche questo è un librone. Adesso non vorrei sembrare una pigrona che vuole leggere solo piccoli. No, ma io ti capisco. Però 1400 pagine più sì, o meno. Sono fra le 1300 e 1400 pagine. Poi il titolo La scuola cattolica, devo dire, non è che sia particolarmente attraente. Mi sembra una grossa impresa. Però certo che io sento delle recensioni molto positive. Molto. Quindi vorrei saperne di più. Allora, lo scrittore è Edoardo Albinati, l'ha pubblicato Rizzoli e già ti dico che è in odore di premio Strega. Quindi è stato candidato al premio Strega e per la solita alternanza, sai che il premio Strega un anno vince Mondadori, un anno vince Rizzoli. Di voi librai. Adesso Mondazzoli è praticamente la stessa cosa, visto che negli ultimi 2 anni ha vinto Einaudi, quest'anno la vittoria dovrebbe andare a Rizzoli, quindi il librone di Albinati, insomma, è molto diciamo corteggiato da questo punto di vista. Ora, al di là di questi pettegolezzi sui premi letterari, È un libro che io non ho ancora affrontato, Marta, ti dico, perché appunto è un periodo in cui ci sono dei libri veramente dei libroni molto molto lunghi, quindi mi sono un po' documentata su quello che hanno scritto persone di cui mi fido. Per esempio sul Corriere della Sera Francesco Piccolo ha scritto un bellissimo articolo. Allora, tutto questo romanzo è un po' la vita dell'autore. Il protagonista, tant'è vero, si chiama Edoardo come l'autore stesso, e parla degli anni della scuola. Attraverso gli anni della scuola poi parla, come sempre succede nei romanzi, di filosofia di vita, di altri episodi, di questioni esistenziali. La scuola in cui che frequenta questo ragazzo è il San Leone Magno, vicino alla Via Nomentana a Roma. Perché ti preciso questa cosa? Perché in questo romanzo, alla fine, proprio perché si analizza anche alcuni personaggi che bazzicano in quella scuola, si arriva anche ad analizzare le cause, il come e il perché del famosissimo, purtroppo, delitto del Circeo. Del Circeo che avvenne nel 75, non siamo so se sempre ricordi. Negli anni 70. Siamo sempre negli anni 70. Le due ragazze, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, che furono incredibilmente massacrate da questi tre compagni, insomma, di scuola poco più grandi, che le avevano invitate a appunto in una festa. Una morì al momento e l'altra ha portato per tutta la vita poi i segni di quella violenza brutale. Quindi i temi che girano intorno a questo la scuola cattolica sono tantissimi, cioè la formazione del maschio, l'educazione cattolica, la famiglia, la borghesia, il sesso, la violenza, cioè come si arriva poi a un atto di violenza da parte di una cosiddetta società bene. E quindi La scuola cattolica è un libro che consiglio a chi ha tanto tempo, visto che sono 1300-1400 pagine. Però al di là di questo scherzo, credo che sia un libro che faccia capire un po' la storia anche dell'Italia, la storia emotiva di una parte di noi italiani. Quindi probabilmente il consiglio è lo stesso di prima, cioè a persone che comunque hanno più di 30 anni. Credo che chi abbia meno di 30 anni non riesca a cogliere alcuni aspetti. E io un pochino più di 30 anni ce li ho, e quindi a no, davvero, io non vedo l'ora di leggerlo, perché so che sarà una bella avventura. Tutti libroni questa settimana? No, guarda, per contraltare ti ho portato un libretto piccolo, piccino picciò, come si direbbe. Allora, è di Gianrico Carofiglio, se ne sta parlando molto, anche perché in classifica. Si intitola Passeggeri notturni, pubblicato da Einaudi Stile Libero. Sono 98 pagine in tutto, ma non è questa la questione. La questione interessante è che sono tutti racconti, tutti rigorosamente di 3 pagine. Cioè, Carofiglio ha deciso di raccontare tanti aspetti della vita, appunto, dell'esistenza umana, attraverso 3 pagine, né più e né meno. Infatti, in un articolo lui a un certo punto ha scritto che la creatività ama le costrizioni. Sembra un paradosso, ma è così. Perché nel darsi una misura, chi scrive si trova di fronte ad un perimetro segnato, nel quale però è più agevole cogliere le opportunità. La parsimonia, l'economia dei mezzi cui costringe questa scelta, fa da motore e non da freno all'invenzione. Queste sono parole di Gianrico Carofiglio per spiegare perché ha deciso di fare questo libro di racconti piccini picciò, tutti da 3 pagine. E non è mica facile, il dono della sintesi. Amo il dono della sintesi, io sono una carveriana, mi piace molto Carver, i racconti, la sintesi, quindi a differenza di molti italiani che non amano la forma del racconto, a me piace molto, però dobbiamo leggerci anche al di là. E invece a me piacciono gli esercizi di stile, alla Canoa, anche questo è un bel esercizio di stile, la brevità. E niente, mi hai citato 3 libri, adesso ho voglia di leggerli tutti e 3, spero anche gli ascoltatori. Alessandra, invece il cacciatore di libri stasera alle 22, ascolterete per esteso l'intervista a Garth Risk-Holberg, appunto autore di Città in Fiamme, perché è uno dei libri del momento. Se non riuscite a sentirlo alle 22, c'è sempre il podcast. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Ciao. Il sabato del villaggio. E ora al sabato del villaggio di Radio 24, il nostro sabato pomeriggio in diretta, è il momento di parlare di consumi. Che bella questa canzone di un sacco di anni fa. Erano gli Aerosmith che cantavano Dude Looks Like a Lady. Insomma, questo ragazzo assomiglia un po', si veste come una donna, assomiglia a una donna. E in questa puntata in cui stiamo parlando tanto di uomini e donne, di gusti maschili e femminili che vanno a coincidere, succede anche nei consumi. E allora ne parliamo subito con Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Allora sì, tu mi hai detto cose da maschi che piacciono alle femmine e viceversa, allora non potevo non citare il fenomeno di cui si fa un gran parlare in questo momento nella moda, che è la tendenza no gender. Allora, chissà quante polemiche ogni volta, perché è un tema molto caldo, però in questo caso parliamo di moda e davvero succede così. Sì, lasciamo stare tutte le polemiche, è un fenomeno moda, noi lo descriviamo sotto questo punto di vista. Siamo molto oltre l'unisex degli anni 80 e 90, lì era, come dire, più la giacca maschile che veniva rubata dall'armadio di lui e indossata da lei. Oggi è l'esatto contrario, è più l'uomo che si appropria degli abiti femminili, nel senso che non c'è un appiattimento delle differenze, c'è invece proprio un'esaltazione, per farti capire, la camicia di pizzo sotto la giacca di lui. Ok, ok, ma non è un travestirsi o un imitare, no? Assolutamente no, è una moda che va bene per tutti, a dare la linea in questo senso è stato l'anno scorso Gucci con il debutto alla guida di Alessandro Michele, che ha portato sulla passerella creazioni indossate indifferentemente al maschile e al femminile, tanto è vero che sulla passerella ha usato modelli e modelle per la stessa tipologia di capi. E poi ad esempio ha proseguito sulla tendenza anche Pitti Immagine, che ha lanciato la sezione open, quindi superando proprio il concetto di genere, capi e accessori adatti all'uomo come alla donna. Beh, ci si potrebbe prestare i vestiti in famiglia ad avere la stessa taglia, ovviamente. Eh beh sì, quello è già è più un gap difficile da superare. Questo è un dettaglio non da poco. Per farti capire quanto stia diventando mainstream, insomma si dice così, questo fenomeno, l'annuncio più recente è quello di Zara, che ha lanciato nei negozi la sua prima collezione ungendered, quindi pensata per poter essere indossata indistintamente da uomini e donne. Per lo più in realtà, insomma, di là dell'etichetta si tratta di maglie, felpe e pantaloni, quindi insomma non questa grande rivoluzione. Forse più simile all'unisex di un tempo, esatto. La felpa col cappuccio e la felpa col cappuccio. Esatto, quindi tanto rumore per nulla, perché come al solito sono scoppiate le polemiche sui social e non solo, chi la definisce sessista, chi la definisce noiosa, altri rimproverano tagli molto informi, quindi che non esaltano le differenze, insomma non si può accontentare tutti, ecco, diciamocela così. Lo scambio comunque, questo il fenomeno è continuo in molte collezioni, quindi quest'anno non so, la giacca maschile va molto di moda, la giacca maschile da smoking, oppure il bomber molto declinato. Si vedo dappertutto, esatto, il bomber. No, ho comprato femminile. Uno l'anno scorso, meno male, mi ero portata avanti. Esatto, i boyfriend jeans ce li ricordiamo. Certo, quelli, anche quelli insomma, li abbiamo dall'anno scorso. Esatto, e poi dall'altra parte la borsa è ormai sdoganata in tutte le forme per l'uomo, così come la gonna addirittura. E la quella gonna è già non più lo difficile so. Da vedere, però e la gonna non lo so sulle se mi passerelle trova. È comparsa assolutamente. No, anche perché sai, un modello con la gonna ancora gli uomini che incontriamo nella vita di tutti i giorni non lo so. Durante la settimana della moda milanese sì, però li sì, incontriamo anche vediamo. In metropolitana. Comunque insomma Marta, gender free, no gender, agender, chiamiamola come vogliamo, è in qualche modo però un segnale di libertà, un modo per raggiungere la parità, magari prima nell'armadio che in altre cose della vita, diciamo così, contro gli stereotipi. Mi sembra che questo, al di là insomma poi del singolo prodotto che può fare anche solo notizia, sia il messaggio importante. Dalla moda ai giocattoli, questo è l'altro settore che ho scelto per raccontarti questa tendenza, perché sono molti molte le aziende che stanno recependo questa tendenza dai colori. Non tutto quello che è rosa deve piacere alle bambine, non tutto quello che è azzurro deve piacere ai maschietti. E quindi perché enfatizzarlo questo nel layout dei negozi, ad esempio, piuttosto che nei cataloghi dei giocattoli? Certo, certo. Anche questo è un segnale di libertà, di abbattimento delle barriere. Vorrei citare a questo riguardo un brand americano che ha fatto scuola, porta avanti da tempo la battaglia contro il sessismo nei giochi da bambina, che non devono avere a che fare necessariamente con le mansioni domestiche piuttosto che con l'essere una modella o una parrucchiera, insomma tutte professioni assolutamente legittime. L'importante è che non siano le uniche rappresentate. Quindi questa azienda propone giocattoli da ingegnere, astrofisico. Bello, mi piace. E in questi settori sappiamo quanto il gender gap sia ancora significativo. Il brand Goldie Blocks propone quindi di tutto, dalle bambole alle costruzioni, all'insegna del claim More Than Just a Princess. C'è anche un canale YouTube che consiglio a tutti, è pieno di spot e filmati diventati molto spesso virali. Mia figlia ne va pazza. A lei che gioco piace? Ma tutti, soprattutto questa rappresentazione così molto agguerrita delle donne, delle bambine, insomma, che possono essere in grado di fare tutto. Questo è il messaggio significativo, che sia appunto la parrucchiera piuttosto che l'astrofisico. E devo dirti che sto guardando il sito, adesso ne voglio una anch'io. Ma bisogna comprarle dal sito americano o sì, sono in vendita anche in Italia, no? Mi sembra di sì, ci sono anche dei distributori in Italia. Ah, però perfetto, quindi basta cercarle assolutamente. Belle, belle queste dritte, anche se devo dirti che secondo me per la parità manca ancora una cosa, che gli uomini debbano abituarsi come noi ai tacchi molto alti. Ah beh, un ecco, bel esercizio. quello secondo me farebbe bene a tutti. Di dritta in dritta andiamo a sentire cosa ha scovato questa settimana per noi la nostra Cristina Lazzati. Ciao Cristina! Ciao, buon pomeriggio a tutti! Allora Cristina, in queste settimane stiamo esplorando delle chicche, delle novità, delle tendenze molto particolari. Questa settimana cosa hai scoperto? La mia parola chiave è personalizzazione, quindi non maschio, non femmina, ma ognuno la fa come gli pare. Uh-huh. E personalizzare, chiaramente, in questo, nel lusso, c'è proprio una tendenza incredibile, al punto tale che adesso ci sono ormai le Prada, Made to Order, per cui le décolleté, 19 modelli di scarpe, con o senza plateau, con altezze diverse di tacco, con le iniziali sopra, eccetera, eccetera, che si possono ordinare e in 60 giorni vengono consegnati. Lo stesso vale per Louis Vuitton e persino Burberry ha deciso di fare una linea che si chiama Monogramma, dove ci sono le iniziali. Però voi sapete che a me piace, come dire, stare un pochino meno sul lusso, perché queste cose in fondo anche il grande sarto, il grande couturier fa le cose su misura, ma non sono per tutte le tasche e neanche per tutti i giorni. Quindi sono andata a vedermi cosa succede nel mondo del fast fashion. Lì la personalizzazione è un po' meno diffusa, anzi diciamo che non c'è praticamente per nulla. Però l'unica operazione che mi è sembrata molto interessante, che se non è stata fatta in Italia, è stata fatta dal fast fashion inglese che si chiama Topshop. Per chi è stato a Londra o comunque in altri paesi l'avrà visto. È una delle tappe obbligate per chi va in vacanza, di quei marchi di fast fashion che non ci sono in Italia, e uno li come va Uniqlo. Come Uniqlo, sono delle tappe obbligate. Bravissima, ecco, Topshop ha lanciato un servizio di personalizzazione temporary, per cui è già finito, quindi se andate a Londra non cercatelo perché accidenti, non c'è, che però è stato, come dire, un piccolo segnale, dove c'era la possibilità di imprimere i nomi iniziali sugli indumenti e mettere dei piccoli stickers o dei patch, no? Ah, che quest'anno è proprio l'anno dei patch, ve li vedo dappertutto, le toppe, le spille, siamo tornati indietro di 30 anni. Bravissima, infatti per i patch, le spille, le applicazioni eccetera vi mando da Wanda. Wanda è un sito internet, che un nome femminile che significa l'unica, quindi già il nome dice tutto, insomma, ed è una piattaforma social dove è tutta dedicata al handmade. Di patch ce ne sono per tutti i generi, per chi sa cucire, quelli da cucire molto molto ricchi, ma ci sono anche patch da stirare. Io sono andata a vedermi quelli per la mia bambina e li ho trovati bellissimi, anche perché ho visto che, appunto, come giustamente Marta sottolineava, quest'anno la moda vuole un sacco di applicazioni. Quindi se vogliamo farci il nostro modello unico andando a prendere un vestitino e shape e poi scegliendoci da Wanda una serie di di pezzi da cucire, quello mi sembra bellissimo e diventa che l'abbiamo veramente solo noi, perché l'abbiamo scelto noi. Passiamo alle borse. Beh, sulle borse chiaramente chiunque ormai tiri, perché stanno aprendo negozi su negozi, ci sono le Obag. Le Obag sono quelle borse che possiamo costruire o in negozio anche sul sito, cercandola, mettendo una scocca di un colore, i manici di un altro, con materiali diversi, più lunghi, più corti, i bordi di pelliccia, di piombino, di pelle traforata adesso per la primavera, e viene fuori una borsa che comunque bisogna esserci, ci sono una serie di possibilità che fa sì che sia, diciamo, se non unica, perlomeno molto rara. Lo stesso vale per le Mia Bag, stesso discorso, e poi ci sono le If Bags, che sono di fatto degli zainetti, ma più o meno con lo stesso ragionamento, per cui si scelgono i colori dei vari componenti e si fanno direttamente o sul sito o nei negozi. In questo momento se ne parla tantissimo, e passiamo alle scarpe. I primi che hanno fatto questa cosa della personalizzazione sono stati le scarpe sportive. Anche Adidas, andando sul sito, ve la compone direttamente. Potete fare un po' anche in questo caso la suola, la righettina, dove mettere il logo, di che colore fare il logo. Insomma, diventa lusso. È vero che non, come dire, il prezzo sale, però diciamo che io mi sono fatta la mia Adidas giusto perché mi sembrava giusto anche sperimentare. Non l'ho comprata, giuro, se mi sento mio marito, non l'ho comprata. Comunque 150 euro, insomma, alla fine è vero, è tanto per magari un paio di scarpe da ginnastica, se uno le usa solo per fare ginnastica, ma visto che le usiamo per andare in giro tutto il giorno, potrebbe essere anche un investimento interessante. Finisco con quelle che forse in Italia non l'hanno mai fatto, credo, il negozio, ma le Converse sono state tra le prime a dire fatevi la vostra scarpa, e anche sul sito di Converse.it c'è la possibilità, più o meno stesso meccanismo delle borse e delle Adidas, di farsi la propria scarpa, nonché c'è una marea di piccoli artigiani che su Converse, Superga e altri marchi invece propongono ulteriori variazioni proprio in termini di patch, di ricami e quant'altro, che mi sembrano veramente molto molto interessanti. Mi piacciono molto questi suggerimenti. Grazie a Cristina per essere stata con noi. Appuntamento al prossimo sabato. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Maria Luisa, l'appuntamento invece con te domani. Domani alle 22, essere avere. A presto. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presento Il sabato del villaggio. E in questo sabato del villaggio stiamo parlando tanto di uomini e donne, di passioni maschili che hanno conquistato le donne. Le sneaker, poco fa, effettivamente una passione molto maschile che ha conquistato anche tanto le donne, che forse se le fanno personalizzare anche più degli uomini. A proposito di passioni sportive, ce n'è una sportiva e anche televisiva che ha conquistato davvero il mondo femminile. Io per prima sono una grande appassionata. Chissà se da questi primi secondi capite di che sport parliamo, ma insomma non vi svelo niente. Ecco qua. Amici dello sport appassionati di snooker, un saluto da Andrea Campagna, ben ritrovati con il China Open. Questa mattina i primi due quarti di finale che ci hanno dato una semifinale molto interessante tra John Higgins e Ricky Walden. Walden tornato a giocare la grande nell'ultimo paio di settimane, ha battuto 5-1 Stuart Bingham. Higgins sembrava destinato a una facile vittoria con Ponce and Cam sul 4-0, poi la bella rimonta del thailandese al miglior torneo in carriera con i quarti di finale qui al China Open, vinto 3 frame di fila, ma poi ha chiuso Higgins nell'ottavo. E questo era un frammento di una telecronaca, in realtà la telecronaca di ieri, di un match di snooker, una delle grandi passioni nuove dello sport, uno sport non nuovo ma che ultimamente in televisione sta veramente facendo tanto parlare di sé. E siccome in questo appuntamento stiamo parlando di cose da maschi che piacciono anche tanto alle femmine, ci sono anche un sacco di fan donne, io per prima. E allora, per capire che cos'è questo sport che in Italia stiamo cominciando a scoprire, abbiamo la voce dello snooker in TV, questa telecronaca, come avete sentito, di Eurosport, Andrea Campagna. Ciao Andrea! Ciao Marta, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Allora Andrea, intanto tantissimi appassionati di snooker, però siccome ancora in tanti non sanno cos'è lo snooker, ti faccio la domanda più difficile. Che cos'è lo snooker? La domanda da un milione di dollari. Ecco. Lo snooker è la versione britannica del biliardo, diciamo il gioco britannico per eccellenza del biliardo, è un gioco molto diverso da quelli, dal biliardo che conosciamo qui in Italia, quello tradizionale. Si gioca su un tavolo immenso, è un gioco di buche, quindi bisogna imbucare delle biglie. Ci sono 15 rosse, si parte dalle rosse, si imbuca una rossa, si ha il diritto barra obbligo di giocare poi un'altra colorata, perché ci sono anche 6 biglie di colore diverso. E bisogna andare avanti in alternanza, rossa colorata, rossa colorata, rossa colorata, più che si può, finché si riesce, si segnano punti, una rossa segna un punto, le colorate hanno punteggio variabile dai 2 della gialla ai 7 della nera, si sommano questi punteggi, punteggi di serie, come si dice in gergo, e vince chi fa più punti. Una delle particolarità dello snooker è che non c'è una quota da raggiungere. Si vince quando l'avversario non ha più possibilità di rimontare. È un gioco un po' strano per certi versi, ma quando ci entri, quando cominci ad appassionarti, poi diventa veramente una malattia. Ma secondo te perché è così appassionante? Perché è un gioco di tattica, un gioco di matematica, un gioco molto televisivo, o anche per i campioni, che sono spesso dei personaggi singolari? Un po' per tutte queste cose. A mio avviso parte dal fatto che, io dico, esagerando ovviamente con un'iperbole, che ha un effetto lisergico, che quando ti metti lì a guardarlo, se superi 5 minuti cominci a entrare in una sorta di trance, non so, sarà quel panno verde enorme, le palline colorate che girano, tutte queste cose qua. Quindi a mio avviso è molto televisivo, non a caso il successo dello snooker in Gran Bretagna è nato nei primi anni 70, quando si è deciso di valorizzare la TV a colori, che era la novità dell'epoca, e si è scelto proprio lo snooker, che aveva questa caratteristica di avere molti colori e una telecamera fissa, quindi non c'era sfarfallio dei colori con le telecamere in movimento. E poi sì, poi ci sono questi campioni, ci sono questi giocatori, c'è il dramma, ci sono le grandi giocate, c'è lo spettacolo, ci sono lunghe fasi tattiche che a prima vista sembrano noiose, ma poi per i grandi appassionati sono le fasi più interessanti, quello è il vero snooker, diciamo. E poi c'è Ronnie O'Sullivan. Ecco, perché tu ogni tanto lo scrivi su Twitter, e adesso parliamo anche del tuo rapporto con Twitter, perché hai anche una bella interazione. Grazie. Con gli spettatori. Adesso raccontiamo tutto. C'è questo campione che è straordinariamente più amato degli altri, perché poi ha anche questo suo aspetto un po' da cattivo ragazzo. Gli italiani lo adorano, i fan dello snooker, questo Ronnie O'Sullivan. Questo Ronnie O'Sullivan, non solo gli italiani, è il giocatore più amato e adorato nel mondo da chi segue lo snooker. Per noi italiani peraltro ha un valore particolare, perché la madre è di origine italiana, lui si chiama Ronald Antonio, i suoi due nomi veri, Ronnie per tutti ovviamente, ed è un giocatore particolare che gioca diversamente dagli altri. Quando gioca alla sua maniera, quando riesce a esprimersi al 100%, è uno spettacolo come nessun altro, a prescindere dal tifo. Io non sono tifoso, però lo adoro come giocatore, mi fa esaltare come nessun altro. Poi c'è l'aspetto umano del personaggio, che lì si va un po' più a simpatia, un po' più discutibile. A me non piace che gli vengano concesse cose che ad altri non vengono concesse. Andrea, abbiamo citato Twitter, così cito anche il tuo account di Twitter, che è @CampagnaAndreaAttaccato33. A Eurosport spesso interagite con i telespettatori commentando i tweet, ricevendo i tweet che gli spettatori vi chiedono spiegazioni, vi mandano suggerimenti, vi chiedono... È un aspetto molto interessante. Anche solo saluti. Comunque si è formata una sorta di community, chiamiamola così, insomma, una piccola community tra quelli che interagiscono con noi su Twitter. Sì, è una cosa interessante che c'è in tutti gli sport di Eurosport. C'è un canale ufficiale che è #DirettaEurosport. Poi alcuni sport hanno il canale dedicato, il ciclismo, il tennis. E noi dello snooker, con #EurosportSnooker, più facile da scrivere che da dire, obiettivamente, e si è creata questa piccola comunità, piccola, grande a dire il vero, perché a quanto mi risulta lo snooker è lo sport di Eurosport che ha maggior numero di interazioni via Twitter. Noi siamo abbastanza attivi, io in particolare, Hai anche un gruppo di fan, anche femmine, proprio perché stiamo parlando di sport e di attività da maschi, sì, che piacciono molto anche alle donne. E quindi tu hai queste tue... come si chiamano? Allora, io li chiamo in generale maschi e femmine. Sì. Campagna Andrea 33 Hers. Sai come certo. I One Direction Hers, queste cose qua. Esatto, là. Esatto. È un gioco, ovviamente, io la prendo scherzando, non è una cosa... che prendo sul serio, però mi fa piacere perché c'è anche chi segue lo snooker per lo snooker, per lo sport, però apprezzano anche i nostri commenti, e parlo nostri perché ovviamente c'è anche, anzi soprattutto, Maurizio Cavalli, grande Maurizio Cavalli, che è la voce storica dello snooker, lo fa da quasi 20 anni. Però insomma questa cosa è un po' cambiata negli ultimi anni, io sono arrivato, ovviamente lui fa un tipo di telecronaca leggermente diversa, anzi all'inizio molto diversa, poi ha capito anche lui, perché è una persona prima di tutto intelligente, molto intelligente prima di essere un esperto di snooker, questa cosa in un certo senso funzionava, insomma si creava questo bel rapporto. Le telecronache di snooker permettono anche di avere questo tipo di rapporto, perché i match durano spesso tanto, però capirai che quando siamo 3 ore in diretta il lunedì mattina, insomma sì, certo si fa la telecronaca, si segue il gioco, però si può fare anche altro, ecco. Andrea, abbiamo parlato finora di snooker guardato, ma si gioca in Italia? Si gioca in Italia, anche questa è una cosa che è nata negli ultimi anni, fino a 5 anni fa c'era ben poco, c'erano alcuni pionieri, io li chiamo così, con grande rispetto e grande stima, che per giocare a snooker facevano i salti mortali, e intendo proprio anche andare all'estero, perché di tavoli in Italia ce n'erano veramente pochissimi. Invece negli ultimi anni si è creato un movimento che è nato, adesso lo snooker fa parte della FIBIS, la Federazione Italiana del Biliardo Sportivo, si è tenuto l'anno scorso il primo campionato nazionale italiano, ma mi sa che questo lo sapevi già. C'ero, come spettatrice c'ero, confermo. La testimonianza che Marta è una fan dello snooker, anche se un po' più il tuo papà, vero? Sì, sì, è mio papà che mi ha attaccato alla passione. Beh, prossimo appuntamento mondiali? Prossimo appuntamento mondiale, sì, in questi giorni c'è il China Open che si concluderà domani, e poi tra 2 settimane, il 16 aprile, comincia la maratona della mente, come viene chiamata, i 17 giorni di mondiale, che sono per noi dello snooker un misto di, come dire, Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto, compleanno, tutto insieme, tutto in una volta, concentrato, per 17 giorni per noi esiste solo quello, si entra in un'altra dimensione, mondiale che si tiene a Sheffield, al Crucible, tra l'altro io ho avuto la fortuna un paio d'anni anche di andare sul posto a vedere le fasi finali, ed è qualcosa di trascendente per noi appassionati di snooker, e che consiglio ovviamente a tutti, perché è anche il modo migliore per iniziare a seguire lo snooker. Al mondiale ci sono tutti i migliori, e tutti i migliori danno il 100%. Peraltro c'è una copertura intensiva, perché ci sono 3 sessioni ogni giorno, si parte alle 11 di mattina, si arriva a sera, a volte anche fino a mezzanotte, all'1, e insomma io lo consiglio come modo per entrare nello snooker. Tanti, la maggior parte degli appassionati di snooker hanno cominciato a seguirlo guardando un mondiale. Quindi appuntamento con Eurosport, con Andrea Campagna, chiocciola Campagna Andrea 33, che ci ha fatto entrare in questo mondo, io ve lo dico, affascinantissimo, dello snooker. Grazie e buon lavoro Andrea! Grazie Marta, buon lavoro a te, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Ciao! Perché voi siete simili a noi questa sera, tutti insieme le mani al cielo! Così si dice! Io così! Thank you. Beh, queste erano Laura Pausini e Paola Cortellesi, che ieri sera sono state davvero brave, sono andate molto bene. 24,09% di share, 5.000 con i numeri, io sono proprio una tragedia, 5.786.000 spettatori su Rai 1 per hashtag Laura e Paola. Ne parleremo tra poco, sarà uno degli argomenti di cui parleremo tra poco in RadioTube, perché come sempre la terza ora in diretta del Sabato del Villaggio parla dell'attualità della rete e dalla rete, che passa spesso attraverso la televisione, ma non solo, ci sono tanti argomenti che ci aspettano nell'ultima ora del Sabato del Villaggio, 17:18 con RadioTube. Questi temi ameni, ci saranno anche temi molto importanti e tanti momenti ancora da passare insieme in questo Sabato del Villaggio. Adesso diamo la linea al giornale radio delle 17, poi saremo ancora insieme con RadioTube.